Italia in controluce. Mi sono ritrovato in mezzo alla ponte. Non vedevo niente, mi ricordavo che c'avevo mia sorella accanto che dormiva nel mio letto. Ho cercato in mezzo alle macerie e per fortuna l'ho trovata. A 7 anni, ora in ospedale, che è ferita, però non è nulla di grave. E poi sono riuscito a scappare. Così racconta questo ragazzo, anche lui viveva con la sua famiglia nella palazzina crollata a Palermo nella notte, trascinando giù anche una seconda palazzina che era lì accanto. Ci colleghiamo immediatamente in diretta con il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che ringraziamo per essere qui con noi. Buongiorno Orlando. Buongiorno, buongiorno. Orlando, lei da questa notte è sul luogo di quanto accaduto, insomma ci racconta che cosa ha visto e insomma come sono state vissute queste ore? Ma intorno alle 11:30 ho avuto comunicazione di questo crollo, mi sono recato immediatamente trascorrendo tutta la notte sul posto dove ho trovato i vigili del fuoco. C'è stato intorno alle 23 di ieri un allarme, uno dei abitanti della palazzina ha chiamato i vigili del fuoco e sono prontamente accorti per fare accertamenti e sono resi conto che la situazione era molto grave e hanno messo in salvo moltissime persone prima che ci fosse il cedimento strutturale dell'intera palazzina che poi ha travolto la palazzina accanto, con 4 dispersi che col passare delle ore sono diventati in atto 3 vittime ritrovate sotto una macerie senza vita e si cerca una quarta signora. Ecco sindaco, naturalmente insomma parliamo di 3 vittime e un disperso, ma poteva andare, come ci diceva lei stesso, poteva andare molto peggio perché per fortuna c'è stata un'evacuazione molto pronta. Ho espresso l'apprezzamento ai vigili del fuoco che hanno messo in salvo almeno 16 persone facendole evacuare prontamente. Sono quelle persone che adesso come amministrazione comunale la notte stessa abbiamo provveduto a fornire dove non avesse un alloggio e anche da riscattare il meccanismo di protezione civile di solidarietà da parte di tutte le istituzioni, ovviamente in particolare certo. Sindaco, dell'amministrazione comunale. Naturalmente è troppo presto per cercare di capire cosa possa essere successo, però insomma sicuramente questo lo possiamo dire dalle testimonianze, c'era stato un appartamento che era stato tirato su, ovviamente abusivo, sul tetto di una delle due case, la prima, quella che è crollata e poi ha trascinato giù anche l'altra. Sindaco Orlando, perché quell'appartamento era lì? Al segretario generale di fornire al comandante della polizia municipale che ha trascorso tutta la notte con me sul luogo della crollo e della tragedia di farmi avere una relazione per conoscere esattamente la dinamica di quanto è accaduto e vorrei dire laddove ci accorgiamo che vi sono costruzioni abusive che spesso sono non visibili dall'esterno, per favore denunciamole. Io credo faccio un appello molto forte, ripeto, non so se questo è il caso, ma se dovesse essere questo il caso l'abbiamo tutti sulla coscienza, tutti coloro che avendolo visto non abbiamo fatto la denuncia alle autorità competenti. Ecco, l'ANCE dice: noi lo avevamo detto, è vero che in una città grande come Palermo è difficile controllare gli abusivismi, ma sono anni che chiediamo l'istituzione dei libretti dei fabbricati, perché questi morti ce l'abbiamo sulla coscienza tutti. È esattamente questa istituzione che in base appunto all'incontro proprio con l'ANCE, l'assessore competente ha intenzione di attivare da parte della nuova amministrazione. Nel frattempo voglio dire che la polizia municipale non passa giorno che non procede al sequestro di immobili abusivi, siamo a decine di immobili abusivi sequestrati in questi pochi mesi di attività della nuova amministrazione comunale, ma io credo che l'amministrazione comunale, la polizia municipale, l'autorità giudiziaria possono fare molto, quello che possono fare più di tutti sono i cittadini, denunciando gli abusi, denunciando strane costruzioni che spesso appunto vengono non denunciate come sarebbe doveroso e non viste dal passante, perché spesso sono internate rispetto all'asse di vista della strada. Grazie al sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, naturalmente la lasciamo lavorare perché sono ore davvero importanti. Grazie mille. Grazie. grazie a voi per la vostra attenzione e per aver consentito a me di rivolgere un appello ai cittadini italiani, siciliani, ma in questo caso palermitani, a convincersi che l'illegalità non è conveniente a cui c'è tragedia. Grazie ancora Sindaco Leo Luca Orlando. E noi ritorniamo invece qui in redazione, accanto a me c'è Maria Luisa Pezzali, con la quale tentiamo dunque di ricostruire cosa possa essere successo. Il sindaco ci ha già spiegato alcuni dettagli, insomma, di quanto ha visto da questa notte, ma insomma Luisa, ripercorriamo queste ultime ore. Sì, innanzitutto diciamo che le palazzine crollate si trovavano in via Bagolino, è una strada di case popolari nel quartiere dei Cantieri Navali di Palermo. La dinamica, come diceva il sindaco, è stata veramente drammatica. Insospettiti dai rumori sinistri e dall'allargarsi delle fissure sulle pareti che da mesi facevano temere il peggio, gli abitanti della palazzina che ha originato il crollo hanno chiamato i vigili del fuoco, dunque immediato l'intervento, immediata l'evacuazione. A questo punto io vi farei subito ascoltare il racconto di quei minuti drammatici nelle parole del comandante dei Vigili del Fuoco di Palermo, Gaetano Vallefuoco. Ho parlato con il caposquadra della prima partenza che è intervenuta dalla nostra sede centrale e lui ha visto una fotografia di uno scenario che viene insegnato al nostro personale e quindi non ha avuto dubbi subito a urlare a tutti gli occupanti di evacuare quell'edificio. E poi ha fatto la stessa operazione dall'altra parte, il personale nostro si è prodigato per portare via una persona con impedite capacità motorie e mentre tutto questo avveniva si è verificato il crollo. Poi da questo crollo sono spuntate le persone che abitavano ai piani superiori dalle macerie che noi abbiamo subito aiutato a mettersi in salvo e abbiamo consegnato al personale sanitario e poi da quel momento sono iniziate le ricerche per le restanti persone che poi soltanto a una certa ora abbiamo saputo erano quelli che mancavano appello. Quindi se il vostro intervento non fosse stato così tempestivo, purtroppo il bilancio sarebbe stato... Mi risultano circa 7-8 persone che sono state tratte in salvo dal nostro intervento. A questi ci possiamo mettere pure la nostra squadra, tutte 5 unità. Le vittime accertate sono 3, quindi cadaveri già recuperati sono quelli di Ignazio Accardi, 82 anni, e della moglie Maria Lamattina, 80, del nipote Antonino Cina, 54. Manca ancora l'appello e per questo si continua a scavare quello di Elena Trapani, 74 anni. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro con una sonda e con le squadre cinofile. Sul crollo è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Palermo che procede per disastro colposo. Piera. E lo dicevamo poco fa, l'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori, chiede l'istituzione dei libretti dei fabbricati, cioè strumenti che servirebbero quantomeno a razionalizzare la conoscenza e la manutenzione degli edifici. Noi abbiamo sentito il direttore di ANCE Sicilia, Giuseppe La Rosa. Una delle ipotesi è questa dell'abuso del quinto piano, che avendo creato sicuramente un sovraccarico su queste palazzine, e questo di per sé è gravissimo, perché se noi pensiamo che solo un carico statico in questo caso, quindi abbia provocato questo, non oso pensare cosa possa provocare un eventuale evento sismico. Insomma, il primo terremoto, non dico che mezza Palermo verrebbe giù, ma insomma ci sono davvero... Mezza Palermo, ma questi edifici non manutenuti in questo modo sicuramente sono ad alto rischio. Tenga conto che oltre all'elevazione di un ulteriore piano, spesso questi edifici vanno incontro a delle modifiche interne, rendendo sostanzialmente la struttura precaria. Ecco, esatto, ma quell'appartamento sulla palazzina non doveva essere lì. Chi è che non ha effettuato i controlli? Chi ha sbagliato? Allora, ha sbagliato chi l'ha fatto, tanto per incominciare. Ha sbagliato chi ha fatto questo abuso, chi non si è accertato, chi non ha fatto studiare agli ingegneri se questa sopraelevazione si poteva fare o meno, trascurando tutte le regole di buona esecuzione e mettendo a repentaglio la vita degli altri. Nonostante questo ci vuole un impegno maggiore degli organi di controllo sia di quelli comunali che di quelli regionali. Il comune sicuramente deve effettuare più controlli, però insomma anche il comune non può controllare casa per casa. Certamente, questo è un problema. Questo è un problema anche di cultura che noi stiamo cercando di smontare. E noi ringraziamo Maria Luisa Pezzali che mi ha aiutato a costruire questa puntata d'Italia in controluce. L'abbiamo sentito il sindaco di Palermo, l'appello forte ai cittadini di Palermo: dovete denunciare quanto vedete, se vedete delle costruzioni che vengono tirate su, insomma se vedete qualcosa che non gira bene, denunciate, altrimenti succede quello che è successo questa notte a Palermo, il crollo dei due edifici e la morte di 3 persone, ancora un disperso. Grazie a Maria Luisa Pezzali in redazione, Matteo Comes in regia. Italia in controluce torna come sempre domani alle 13:30. Un saluto da Maria Piera Ceci.